24 mattino con Oscar Giannino. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, con questa sigletta che ci hanno fatto per le feste. Io non riesco mai a capire quale è la sigletta e quale inizia la trasmissione. Comunque eccoci qua, le 8:13 primi e 39 secondi. Ecco qua, è solo il gatto, solo per oggi, perché il cane sta ancora un po' in vacanza. E il cane, lo sto dicendo fraternamente a Luca Telese. Ma dal 2 torniamo insieme, una volta che si rimetta in piedi dopo l'inizio dell'anno e che ci avrà visto festeggiare come tutti. Allora, oggi il tema un po' obbligato, come vedete dall'apertura di tutti i giornali, e se avete sentito la nostra ottima Giulia Crivelli farvi la rassegna stampa, sempre al posto di Luca, e poi torna Luca a farla lui anche il 2, la fine, diciamo così, dell'esperienza, che poi non è affatto la fine dell'esperienza di governo Gentiloni, ma insomma lo scioglimento delle Camere con Gentiloni che resta, con la lunghissima conferenza stampa di ieri, con i pieni poteri praticamente nell'esercizio della titolarità dei poteri del governo, resta integra fino all'eventuale nuovo governo, che vediamo come, se, di che tipo nascerà dopo le prossime elezioni. E oggi con ospiti delle opposizioni avremo con noi un esponente dei 5 Stelle, Danilo Toninelli, avremo con noi un esponente della Lega Nord, Giancarlo Giorgetti. Vedremo dal loro punto di vista quello che ieri e sui giornali di oggi è a prevalente ispirazione, diciamo così, della conduzione PD, perché Gentiloni si è diffuso molto e lo ha fatto in maniera originale sull'esperienza di questa legislatura. Quindi oggi sentiamo le opposizioni per equilibrare, visto che ieri avevamo un componente del governo con noi, e cioè Carlo Calenda. Prima di andare al primo dei nostri ospiti, vediamo un pochino qual è la forbice di lettura di ciò che ha detto Gentiloni ieri, che c'è sui maggiori quotidiani, perché è ovvio che la conferenza stampa di Gentiloni non si prestava a equivoci. Un Gentiloni dotato di uno spirito ormai a tutto tondo proprio rispetto a Renzi, ha messo i puntini sulle i, ha parlato di una tranquilla forza di governo, quindi nei toni e nella scelta della descrizione niente a che vedere con lo storytelling travolgentemente autoriferito di Renzi, che con la sua enfasi raccontava i mille giorni che hanno cambiato. No, questa cosa è abbandonata da parte del Presidente del Consiglio, che dice anche che il fatto che l'Italia vada benissimo nell'export è il primo a usare una battuta un po' in romanesca, che sottolinea i limiti di quanto si debba al governo e all'azione politica interna rispetto invece al treno internazionale. Infatti dice: a volte non ci si crede. Ecco, anche qui completamente diverso dalla rivendicazione fiera che tutto si doveva alle misure del governo. Secondo, pieno ripristino della dignità e dell'importanza di Enrico Letta nella triade di governo del PD in questa legislatura oramai sciolta, e anche questa è una bella differenza. Però se andiamo a vedere come i maggiori quotidiani interpretano diversamente la cifra politica della legislatura, aggiungo anche che la smarcatura dal PD e da Renzi sulle banche, sulla commissione delle banche, è giustamente da molto stroneata. Condivido per esempio La Stampa, che ci fa il titolo di apertura oggi: banche, Gentiloni si smarca da Renzi, audizioni inutili, ha detto il Premier, e ovviamente si riferiva all'eccesso di polemica soprattutto sulle vicende di Banca Etruria rispetto al grande nodo delle responsabilità invece delle autorità su quello che è avvenuto nelle banche andate per aria. Ma se andiamo a vedere le maggiori interpretazioni oggi sui quotidiani, ripetevo, sono un po' diverse, perché il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, fa un appello, diciamo così, alla responsabilità, cioè dice: ci sono ancora molte incognite di fronte a noi, la stabilità è necessaria. Quindi ovviamente anche il Corriere della Sera riconosce il ruolo che Gentiloni ha svolto molto bene e che rende molto soddisfatto il capo dello Stato Mattarella della sua scelta. Però dice alla fine del suo editoriale Luciano Fontana: cercate per favore in campagna elettorale di dimostrare, sta parlando alle forze politiche maggiori, di essere adulte, cioè di non parlare un linguaggio di responsabilità. E quindi è un appello un po' distaccato, per così dire. Il Messaggero invece, con Alessandro Campi, si diffonde, e forse quello che si diffonde con più particolari a favore, del gentilonismo, forse non come opzione politica, cioè non è che Alessandro Campi dice mi piace, lo voto, dice semplicemente che è una legislatura che ha cambiato la leadership politica alla fine, cioè Gentiloni arriva a un processo per cui il cambio definitivo dal finzione del maggioritario, che era ancora fortissima in Renzi e che però ha picchiato la testa contro il muro nel referendum e dopo nel non saper leggere per un anno il risultato del referendum, colpandone gli italiani, dicendo che si cambiava la legge elettorale per colpa del referendum e così via. E invece Alessandro Campi dice no, no, non è così, in realtà la leadership incarnata da Gentiloni è più coerente con il fatto che appunto è un sistema che il mal digerito e il mal sopportato dai partiti maggioritari se lo mette alle spalle. E la conclusione di Alessandro Campi, sia pur con qualche dubbio, però è più netta di quella del direttore del Corriere, e dice testualmente: Alessandro Campi, naturalmente non è detto che il gentilonismo continuerà col suo inventore, ma quel che ci aspetta sembra chiaro, una lunga parentesi politica in cui dovranno giocare a forza a prevalere il pragmatismo, la capacità di dialogo, il riformismo dei piccoli passi. Qualcuno lo definisce sulle ceneri della Seconda Repubblica un infelice ritorno al passato. Io per esempio la penso un po' così, ci metto il mio inciso personale, ma conclude Alessandro Campi sul Messaggero: in un paese malato di velleitarismo e dimostratosi nel recente passato sin troppo sensibile alle sirene della demagogia e nel quale la politica ha bisogno di conquistare la fiducia di milioni di italiani, non è da escludere che un bel bagno di modestia, realtà e buonsenso sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco, Alessandro Campi è quello tra tutti nel Messaggero che con il Messaggero coglie questa cifra. La Repubblica invece è molto più preoccupata, Claudio Tito da un fondo che dice non vinca il partito dell'irrealtà. Repubblica parte, lancia in resta dicendo tutte stanno già lanciando in aria mongolfiere, a cominciare dalla proposta del reddito di dignità di Berlusconi, di cui Berlusconi non ha dato le coperture e che sono elevatissime rispetto al fatto di assicurare a tutti gli italiani un reddito minimo di 1000 euro al mese e di raddoppiare le pensioni sociali da 500 euro attuale a 1000 euro al mese. E se andiamo infine, abbiamo visto il Corriere della Sera, abbiamo visto il Messaggero, se andiamo invece alla Stampa, ecco, anche la Stampa come Corriere è più scettica rispetto al Messaggero e parla nel suo editoriale con Giovanni Orsina di una politica zoppa in cerca di leader. Ecco, Giovanni Orsina sostiene il problema di Berlusconi resta completamente aperto e non è risolto, della leadership e di quale tipo di centrodestra tra quello di Berlusconi e quello di Salvini. Nel PD l'obiettivo fallimento di Renzi, dice Gianni Orsina, consegna un problema irrisolto di cui Gentiloni è una soluzione completamente diversa per tono, tipo, impostazione, passo di marcia rispetto a quello di Renzi, ma vedremo quale sarà il messaggio elettorale, e quindi resta aperto il problema della leadership anche al PD. E poi resta anche un problema dei 5 Stelle, dice Giovanni Orsina, leggo testualmente: il Movimento 5 Stelle un po' è maturato, si è costruito della classe dirigente, ha messo delle radici, ha fatto esperienza in Parlamento e nelle amministrazioni locali, però anche questo caso mi sembra che non sia stato sciolto nessuno dei nodi di 5 anni fa. Ecco, come vedete, interpretazioni diverse, sia pure in una cifra dominante che riconosce a Gentiloni tutti i meriti di una legislatura che sembrava finita, invece con la sua esperienza di governo di tono e passo completamente diverso da Renzi ha segnato un sigillo che pochi si aspettavano, reso molto felice il Quirinale e consegnatoci un altro nuovo leader potenziale del centro-sinistra. Pensate, mentre Berlusconi lì da 23 anni, quanti potenziali leader del centro-sinistra messi in fila a fatti secco si sono alternati, è più di una squadra di calcio se ci pensate bene, tra Veltroni, D'Alema, Fassino, Occhetto all'inizio, Rutelli, Amato, e poi arriviamo a quelli di oggi, Letta, Renzi, Gentiloni. Cioè, si fanno due squadre di calcio. Allora, ci torniamo tra poco e poi sarà con noi appunto Danilo Toninelli dei 5 Stelle. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta "24 mattino". Eccoci qui, tornati. Oggi tra l'altro è San Tommaso Becket. Tommaso Becket è uno dei santi, tra virgolette, politici, per così dire. Cancelliere del re Enrico II, nel 1170 si oppone alle prerogative regge per difendere i diritti della Chiesa, però perché nel merito aveva torto, nel senso che le costruzioni di Clarendon erano un primo passo verso quella che poi sarà la Magna Carta all'inizio del 1200, però lui si oppone perché erano toccate le prerogative della Chiesa, eppure essendo il cancelliere del re non firma gli atti, il re si fa sfuggire di bocca, ma insomma chi mi libera di questo pazzo, e quindi quattro cavalieri di Enrico II vanno alla cattedrale e lo ammazzano a fil di spada. Tommaso Becket è da sempre uno dei santi politici della coerenza, per così dire, che la Chiesa ha usato per dire ai politici non ci pieghiamo, ecco. Detto questo, e la coerenza è una virtù, ma è anche vero che bisogna sapersi adattare ai tempi che cambiano. Allora, è con noi Danilo Toninelli, deputato 5 Stelle, già vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, ora suo componente. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi e buone feste a tutti. Allora, per voi, dal vostro punto di vista, questo bilancio in cui tutti riconoscono la gentilezza di aver incarnato una leadership diversa da Renzi, dal vostro punto di vista, lo è stato davvero? Avete avuto un rapporto diverso? È una possibilità anche per voi di facilitare il dialogo nel dopovoto con un PD, con Gentiloni, se resta Premier, piuttosto che no? Oppure è tutto uguale? Che impressione avete? Ma io penso che più che il giudizio delle persone serva il giudizio sui fatti. È passato più di un anno dal governo Gentiloni, da quel 4 dicembre in cui i cittadini hanno mandato a casa Renzi. La domanda è: che leggi ha fatto Gentiloni e il suo governo per migliorare la qualità della vita degli italiani? Ha fatto buone leggi contro la corruzione? No. Ha fatto leggi per sburocratizzare lo Stato? No. Ha fatto leggi per aiutare i risparmiatori? No. Ha aiutato le banche facendo pagare ai risparmiatori? Il sunto di tutto questo anno è il nulla. La differenza è che Renzi, che Gentiloni tiene la mano al malato e lo carezza, il malato Italia, il malato della povertà, mentre Renzi lo schiaffeggiava cercando di risvegliare un malato ma non curarlo. Però, ti ripeto, i fatti dimostrano che è stato un anno di nulla assoluto. Quindi da questo punto di vista per voi, questo quello per me pari sono più o meno. No, non ma, sì, ma cosa mi interessa? Se prima c'era uno che sbatteva la porta, che era Renzi, senza chiedere permesso, e ora c'è uno che invece bussa alla porta e chiede permesso. Io penso che gli italiani non abbiano bisogno di uno che gli carezzi la testa e che gli dica che tutto va bene quando in realtà non vanno bene, ma che ci siano persone che abbiano la credibilità. Io penso che il Movimento 5 Stelle, anche se non è stato al governo, anche se sicuramente qualcosa dobbiamo ancora imparare, ci mancherebbe altro, però abbia dimostrato una credibilità. Il taglio dei stipendi l'abbiamo fatto, rinunciare ai finanziamenti pubblici l'abbiamo fatto. I comuni che abbiamo amministrato, che stiamo amministrando, ci dissero uno in cui abbiamo peggiorato la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo in quasi tutti i comuni abbassato il debito pubblico comunale, stiamo iniziando col reddito di cittadinanza locale, le tasse sui rifiuti che sono parametrate con i rifiuti effettivamente prodotti, abbiamo risanato società partecipate come l'AMSA Livorno, che era stata depredata dal Partito Democratico. Tutti i fatti che dimostrano che siamo una forza politica credibile. Abbiamo rinunciato ai vitalizi, lottiamo contro gli sprechi. Non abbiamo la differenza, secondo me è fondamentale, è che abbiamo le mani libere, Giannino, anche se, ripeto, dobbiamo certamente ancora migliorare. Ma che mi interessa dell'espertone della politica che alla fine però fa le leggi o a favore di se stesso, Berlusconi, o a favore di chi gli sta alle spalle Renzi con le società che lo finanziavano? Toninelli, qua ci vuole gente che impara, che ha gli esperti, sì, e che quindi manda avanti idee concrete. Però Toninelli, se andiamo a vedere, lei ha parlato di città amministrate, mi è toccato scrivere anche a me oggi sul Messaggero, stiamo parlando dei rifiuti, AMA, una dei due grandi municipalizzate nei guai storiche di Roma, ereditate certo dalla Raggi in queste condizioni, l'altra è l'ATAC, che è la Peugeot d'Italia, che è in amministrazione... è in concordato preventivo, sì, col teatro. Però l'AMA a distanza di un bel po' oramai dalle elezioni, il problema del chiudere il ciclo del trattamento dei rifiuti a Roma è irrisolto, si deve chiedere adesso per l'ennesima volta ad altre regioni, ad altre città, di farsi carico di parte dei rifiuti che l'AMA non è in grado di trattare. L'AMA è in grado di trattare a Roma, e questo è storico il problema, non è che si è creato nell'ultimo anno e mezzo, non più di un quinto del totale del 1.700.000 tonnellate della città, e la naturalmente l'Emilia Romagna, e siccome poi tra l'altro si tratta anche di mandarle all'inceneritore di Parma Pizzarotti, si prendono tempo per rispondere. E come vede, non è che sia proprio tutto rose e fiori la prova Giannino, data amministrativa. Sono qua a dire che nulla è semplice, soprattutto è complicatissimo amministrare una città come Roma, che ha 13 miliardi di euro di debiti, tra l'altro manco in mano agli amministratori comunali, ma in mano al governo. Detto questo, io però voglio ricordare dei dati. Prima gli appalti a Roma venivano fatti sempre in stato di emergenza, assegnazioni dirette. I rifiuti è un caso scandaloso, ma lei sa che abbiamo fatto per primi noi e quest'anno un contratto fatto con Cerroni, che gestisce l'inceneritore romano, perché gli venivano assegnati i rifiuti dei romani come con la stretta di mano. Sai che cosa significa un contratto? Significa che Cerroni deve rispettare le regole, deve rispettare la legalità, rispettare le leggi. E infatti le sanzioni... Io capisco che la legalità non si percepisca, non sia tangibile dall'oggi al domani, ma capisco che i Buzzi e Carminati, che gestivano i campi rom, che gestivano gli appalti in maniera paramafiosa, hanno danneggiato enormemente la vita. Quindi dateci te, la consigliatura dura 5 anni. Ripeto, criticateci per l'albero di Natale, questo sono molto, ma non criticateci sulla legalità. Sulla legalità e sull'efficienza, con dei dubbi. Però la domanda, torniamo alla cosa nazionale. Questa legge elettorale, per una forza politica che non vuole allearsi con nessuno, perché questa è stata da sempre una delle caratteristiche che voi avete sottolineato al vostro elettorato, è una legge elettorale che favorisce gli altri che invece si alleano nel terzo di collegi uninominali, di finte alleanze, perché poi sappiamo che sono finte e l'indomani tutti saranno sciolti di fronte agli impegni che hanno fatto finta di prendere di fronte agli elettori. Questo è un fatto, cari ascoltatori, non è un'opinione, ma è una mano data agli altri, o per voi comunque è indifferente rispetto al vostro schema di giocare solo in campo? Ma guardi, io penso che votare le coalizioni con questa legge elettorale che hanno cercato di disegnare contro di noi sia fare un salto nel buio. Cioè, la coalizione di centro-sinistra non esiste, l'abbiamo visto, quindi il voto, diciamo, al centro-sinistra è un voto perso. La coalizione di centrodestra è un disastro, perché si è creata insieme, non so, non c'è neanche la colla per la carta. Si litigano già, si mettono insieme, come ha detto lei, in questo momento per il vantaggio, perché magari hanno quel seggino in più, quel signor Salvini che si paventa salvatore della patria contro le banche e quant'altro, si allea con Berlusconi, e sappiamo tutti i danni che Berlusconi ha fatto in questi più di 20 anni, per avere un piccolo seggio in più, ma sappiamo già che si litigheranno un giorno dopo, quindi ci sarà l'instabilità totale. Io penso che dare il voto a chi corre da solo perché ha un candidato premier, Luigi Di Maio, gli altri quanti candidati premier hanno, io da cittadino italiano vorrei sapere se votando quella coalizione c'è una persona che mi rappresenta e rappresenta tutto il programma. No, lì c'è Berlusconi, c'è Salvini, c'è Meloni, ognuno con delle idee completamente contrapposte. E noi abbiamo un unico programma. Ora usciremo con il programma fiscale, che io penso ti piacerà, le piacerà anche molto. Abbiamo un programma sull'innovazione, sulle smart city. Io ho studiato la parte sulla pubblica amministrazione, abbiamo un'idea che è straordinaria nella sua semplicità. Io l'ho chiamata il trip advisor della pubblica amministrazione, l'utente che partecipa alla valutazione dell'organizzazione della PA, ad entrate, scuola, comune e quant'altro, per far che cosa? Per valutare il dirigente che oggi è bravissimo ma dirige una struttura che fa schifo, e mi pare una certa contraddizione. Quindi rimettiamo la meritocrazia nel circuito della pubblica amministrazione. Do un altro piccolo dato che io, quando ho conosciuto, trovo sconcertante: ma sapete che ci sono in Italia 16.000 banche dati pubblico del catasto, dei comuni, le partecipate, che non si parlano tra loro? Noi la vogliamo ridurre a uno. Sai che significa? Con un clic l'impresa, il cittadino, il comune con la regione, la regione con lo Stato o l'avvocato col tribunale può ottenere un documento. Perché non l'hanno mai fatto? Perché non gli conviene? Perché i politici potentini locali vogliono ottenere il loro potere da quei registri che solo loro hanno, e soprattutto dietro queste 16.000 banche dati pubbliche che non si parlano si annida la corruzione, la clientela che non riesce a trovare, perché, ripeto, perché non si possono vedere. Senta, ma siccome anche oggi nei profili sui possibili leader sui leader di ogni formazione politica, si dice in diversi quotidiani, almeno un paio, ma in realtà Salvini ha la carta di riserva. La carta di riserva è verificare sul campo quanti voti ha preso la Lega, quanti seggi e quanti ne ha preso i 5 Stelle, e a quel punto spiazzare Berlusconi. Questa è una pura invenzione giornalistica per quello che vi riguarda, oppure può essere davvero uno sviluppo, certo, trattando sui temi, ma lei che dice? Ma io ho la fortuna, come tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, di non essere un politico di professione e di non capire questo tipo di ragionamento, nel senso che la Lega oggi non ha un programma, il Movimento 5 Stelle ha un programma. Se non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta, e non è un miracolo, perché nel 2013 il nostro 25% veniva definito come un miracolo, un miraggio, quindi oggi il 40, visto che siamo al 30-40%, lo è meno del 2000, di quanto non fosse il 25% nel 2013. Se non ce la dovessimo fare da soli, se alla Lega gli piace il nostro programma in cui le aliquote IRPEF del ceto medio verranno abbassate, la lotta alla corruzione, serie leggi contro la corruzione, io ricordo che il whistleblower appena approvato da poche settimane alla Camera, cioè che significa che chi denuncia un truffatore, un criminale all'interno della PA o all'interno di un'azienda privata, questo qua viene protetto e premiato. È una legge che aiuterà l'economia, perché gli imprenditori esteri verranno a investire più tranquillamente. Ecco, se la Lega è d'accordo con queste idee qua che noi implementeremo, ci darà la fiducia in Parlamento. Intanto mi sembra appunto una cosa concreta, si vedrà sulle cose concrete. Ma un'ultima domanda, perché alcuni giornali scrivono da 2 settimane in vista delle candidature che anche voi dovrete individuare per i listini e per i collegi nominali, dicono parlano di una specie di intesa per conferire a Luigi Di Maio, come l'ha già detto il candidato indicato premier, dei poteri anche sulla nomina dei candidati. Ma anche qua, che cosa è invenzione giornalistica e che cosa è vera? Come verranno scelti i vostri candidati? Allora, sicuramente, Giannino, saremo l'unica forza politica a fare le primarie, e questa è una cosa che da cittadino mi rende felice, o meglio, da portavoce di 5 Stelle mi rende felice, perché mi sento democraticamente superiore agli altri. Da cittadino, vedendo l'arco politico che non le fa, mi preoccupa tanto, perché pensare, è qua che si scardina proprio la politica, quando è una persona, Berlusconi o Renzi, a decidere chi far entrare in Parlamento, perché sei seduto al tavolo con la casellina, con un nome e cognome che tu piazzi lì, capolista del collegio plurinominale, che significa certamente farla entrare in Parlamento. Quando succede questo, quella persona, secondo lei, secondo chi ci ascolta, insomma, i parlamenti degli eletti, rispondono ai leader politici. A noi non piacciono, ecco. Noi facciamo le parlamentarie e quindi o primarie, sì. Le facessero gli altri, così chi va in Parlamento non risponderà mica del capo politico che l'ha messo lì, ma risponderà dei cittadini che l'hanno votato, e penso che il paradigma democratico sia molto molto differente. Va bene, allora intanto grazie a Danilo Toninelli, e da questo punto di vista che vi devo dire, una messima in campagna elettorale, noi avremo i tempi al nanosecondo equilibrati, lo dico agli ascoltatori che come sempre cominciano ogni ospite politico a dire state facendo propaganda per noi. Adesso ancora più di prima, come tutte le emittenti, entriamo in un vincolo rafforzato, verremo pesati per settimana, per mese e così via. Quindi, cari ascoltatori, la campagna elettorale non l'ha inventata Giannino, il Parlamento è sciolto e i tempi devono essere rigorosamente quelli che diano a tutti la facoltà di non venirci addosso dicendo state dando più tempo rispetto alla rappresentanza. E rassegnatevi, perché adesso per 2 mesi sentirete molto parlare i politici. Adesso, dopo pochissimo, torniamo con Giancarlo Giorgetti, deputato della Lega Nord. Mattino. Eccoci qua, tornati cari ascoltatori, 8:39 minuti e 45 secondi, e 24 mattina con noi Giancarlo Giorgetti. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Faccio a lei all'inizio solo la stessa domanda che ho fatto a Toninelli dei 5 Stelle. Che giudizio avete? Che impressione vi ha fatto questa fase di governo Gentiloni, di cui tutti obiettivamente hanno sottolineato una grande differenza di impostazione, toni e anche prospettive future alla fine rispetto a quella di Renzi? Dal vostro punto di vista, stessa bagna di prima, oppure comunque una cosa politica che riporta qualche chance al PD? Ma innanzitutto il PD non esiste più come partito democratico, ma è il partito di Renzi, questa è la realtà, per chiunque in qualche modo ne abbia conosciuto sul territorio capisce bene il cambiamento di pelle che ha fatto. Detto questo, il cambiamento di Gentiloni è semplicemente che si è travestito da Forlani e sa Forlani. Che gli italiani i Forlani dall'idea, cioè è un, insomma, è un ritorno all'interpretazione democristiana, la trovo abbastanza esattamente. Ha capito che l'Italia l'hanno governata i democristiani in quel modo lì per tanti anni, e quindi i modi irruenti e discutibili, divisivi di Renzi e il Toscanaccio sono stati archiviati. Dopodiché il tentativo in qualche modo di cambiare pelle. Il problema di Gentiloni, che diciamo è la speranza di tutti quelli all'interno del PD che hanno capito che con Renzi vanno a schiantarsi contro il muro e che Renzi gli dia via libera. Il problema è che Renzi, per carattere, temperamento, sua storia personale, mi sembra che non sia esattamente predisposto a questo. Quindi diciamo la via forlaniana alla sopravvivenza la vedo complicata. Ma glielo chiedo perché in realtà Gentiloni potrebbe, con questo tratto, esattamente quello che ha evocato lei, rilanciare una cosa su cui nella legislatura che oggi va a chiudersi, si è chiusa, in realtà è stata la scelta di Berlusconi all'inizio, cioè il patto del Nazareno, perché il patto del Nazareno, che alcuni quotidiani ripropongono anche oggi come possibilità, anzi un'autostrada nel caso in cui nessuno dei tre poli avesse una maggioranza, visto sto cavolo di legge elettorale che hanno fatto, e alcuni dicono in quel caso, certo per Berlusconi è più facile ancora, piuttosto che con Renzi, con cui c'è stata la rottura, e così via. Allora, e voi come la vedete questa? È una ipotesi del tutto giornalistica, bisognerà vedere al momento giusto. Voi a quel punto direste a Berlusconi: ma, senti, vai, noi no. Ma allora sicuramente noi non ci andremo, ma il discorso è molto semplice. Io penso che questa ipotesi coltivata, in qualche modo incentivata, indirizzata dai poteri mediatici non solo in Italia e all'estero, è una strada che Berlusconi ha coltivato per un certo periodo di tempo, e questa, diciamo, disgraziata, come è stato giudicato da lei, legge elettorale, ha però un pregio rispetto a questa legge elettorale. L'altra possibilità che era in campo era quella del proporzionale puro, che avrebbe, quella sì, automaticamente portato al governissimo, al governo di lacrime e tese. Ah no, quella era ancora peggio, sono d'accordo. Ecco, appunto, allora noi abbiamo con tutte le forze cercato di portare verso un sistema maggioritario, avremmo voluto un sistema maggioritario al 100%, al 75%, è venuto fuori un sistema maggioritario al 36%, e che però al di là di quello che dicono, diciamo così, tutti i ben pensanti, è quello che si respira tra la gente, potrebbe produrre, anzi secondo noi produrrà, una maggioranza chiara di destra o di centrodestra, come è più politicamente corretto dire. A quel punto lì per Berlusconi, diciamo così, il problema sarà che dovrà in qualche modo mettere in piedi un governo tipo quello austriaco, che è stato battezzato nelle settimane scorse, e in questo contesto viene meno l'ipotesi Gentiloni, caldeggiata da più parti. E quindi dipende se funziona il sistema della nuova legge elettorale nei collegi, e il vento di destra che è aspirato in tutta Europa aspira anche in Italia, secondo me verrà fuori una chiara maggioranza di quel tipo lì. Poi evidentemente la domanda successiva che mi farà Giannino sarà: e chi è che fa il premier di questa maggioranza di centrodestra? Però la domanda, se vuole, me la fa lei, io me la faccio da solo, che è meglio. No, ma guardi, poi io penso che a quel punto conteranno pure i voti, se ne prendete più voi o Berlusconi. Scusi, non ci vuole, allora, io la vedo come una cosa naturale, Berlusconi dirà. E questa è la democrazia, però ultimamente non è che la democrazia funziona in base a chi, no, a chi vota il popolo e il governo, no, di conseguenza. Lei lo sa che, da un bel po' di annetti che va avanti. Esatto, mi sembra che ne abbiamo precisa testimonianza anche negli ultimi 5 anni. Allora, la domanda importante, perché chi vi dovesse votare lo fa sapendo che se vota voi c'è un leader, una forza politica che dice io voglio uscire dall'euro e farò l'impossibile per uscire dall'euro, perché Berlusconi, a dire la verità, questo tasto non tocca mai, cioè sta attentissimo a dire con me no se votate me, poi Salvini dica quello che vuole. Chi sceglie voi sceglie una cosa che serve a uscire dall'euro o no? Allora, chi sceglie noi non sceglie di uscire dall'euro, sceglie di andare in Europa a ridiscutere tutta una serie di regole, euro inclusa, che a nostro giudizio, nella concreta applicazione di tutti questi anni, hanno sistematicamente danneggiato l'Italia e il popolo italiano. Quindi troverà una forza politica non arrendevole, battagliera, energica, con delle idee chiare, e che va là non per picchiare i pugni sul tavolo in modo estemporaneo e farsi magari ridere dietro o ridere alle spalle, in modo serio, cercando alleanze anche a livello europeo, perché qua è inutile girarci attorno sui grandi temi, o tu hai un asse con altri in Europa, oppure sì, puoi sì dire quello che vuoi, ma non porti a casa niente. Allora, no, oppure fai, voglio dire, la fine della Catalogna, tanto che anche un voto, la successione eccetera, in 48 ore se ne vanno 3.000 grandi imprese, o comunque dichiarano di andarsene, perché poi non è che spostano gli stabilimenti, e a quel punto sei in mutanda. Quindi, però, cioè, l'Italia quindi forse deve avere gente che sta un po' attenta a evitare queste cose. No, assolutamente sì, ma di questo siamo consapevoli. Noi siamo una forza politica che ci proponiamo di governare, non è che ci proponiamo di abbaiare alla luna o di fare casino. Noi non siamo casinisti, noi siamo della gente che sicuramente ha delle idee chiare, lo diciamo spesso anche in modo netto, inequivocabile e forte, in quei toni forti, ma riteniamo che questo sia necessario rispetto a una politica accondiscendente che nel corso degli anni ha trascinato in diverse situazioni, dall'economia all'immigrazione, l'Italia sempre in posizione di chiaro svantaggio. Però cioè, costruire alleanze e una energica rivendicazione dell'interesse nazionale non significa dire benissimo italiano, tra 2 settimane noi teniamo qualunque cosa dica l'Europa, un referendum per uscire dall'euro. Cioè, ecco, in sintesi, il referendum non si può fare, appunto, come lo sanno bene tutti quanti, anche quelli che lo propongono. Secondo, è chiaro che se la Lega prende il 40% dei voti, vuol dire che il mandato che noi abbiamo è che il popolo italiano vuole ridiscutere i trattati. Come vedrà nel manifesto politico della Lega, troverà scritto la ridiscussione di tutti i trattati che da Dublino, piuttosto che a Maastricht, piuttosto che a quello che vuole lei, normalmente nella loro applicazione hanno trovato sostanzialmente l'Italia succube di decisioni e di interessi di altri. Basti pensare a tutto quello che è successo sul sistema bancario italiano, dove per la negligenza del governo italiano, che appunto ha accettato supinamente tutti questi diktat, noi ci troviamo completamente sventrati in un settore nevralgico del paese. Allora, l'ultima questione riguarda una dei grandi problemi insoluti del nostro paese. In realtà noi i gap tra nord e sud li abbiamo riapprofonditi, cioè li abbiamo lasciati andare, e li abbiamo lasciati andare in condizioni per cui oggi abbiamo regioni con redditi ufficiali, insomma quelli noti all'anagrafe dei redditi medi pro capite, di neanche 15.000 euro l'anno, 14.700 la Calabria, e parti del nord in cui ci sono 36.000-37.000 euro pro capite. Abbiamo la produttività manifatturiera in 10 anni fatta pari a 100 quella del nord, quella del sud era all'88%, 15 anni fa adesso è il 70%, e così via. Questo gap che si apre, secondo me, o si affronta apertamente oppure ci porta tutti a fondo. Porta a fondo anche la parte dell'Italia che segna il record dell'export, quella non so come la pensa lei. Rispetto a questo, il vostro volgervi da forza che parlava di nord a forza nazionale, come Salvini dice sempre, io sono convinto che la strada da battere sia quella, e anche alcuni lo hanno criticato per questo. Cosa risponde a chi del sud vi dice ma perché dovrei fidarmi di votare la vecchia Lega che so che mi riservava sempre parole dure sul sud, dicendo siete il piombo in questo paese, rispetto al fatto che si sono aggravati i gap, perché dovrebbero votarvi adesso? No, innanzitutto se si sono aggravati i gap, evidentemente non è colpa della Lega, non è colpa delle politiche della Lega, perché tutto quello che è stato fatto in questi 30, 40, 50 anni, oserei dire che con la Cassa del Mezzogiorno andava addirittura meglio di adesso, ok? Evidentemente al nord non sono contenti, al sud non sono contenti e bisogna cambiare. Come cambiare? La proposta della Lega, noi ci rivolgiamo al sud non dicendo più assistenza, più pensioni per tutti, più redditi minimi per tutti, perché in questi soldi, se qualcuno non li produce, non ci sono. L'unica ricetta per il sud è dare la possibilità di esprimersi alle energie, ai giovani del sud, che sono tra i più intelligenti del mondo, perché quando se ne vanno dall'Italia fanno la fortuna in giro per il mondo, di esprimere queste potenzialità. Quindi, paradossalmente, è la ricetta liberista, la ricetta di creare le condizioni infrastrutturali di contesto, prima di tutto, ma anche di tipo fiscale, giuridico, per cui da qui arriva la proposta della flat tax. Il sud deve essere un luogo dove i residenti, in particolare i giovani, e chi vuol venire dall'estero può tranquillamente investire e cercare di creare sviluppo autonomo. Se non si fa questo, non c'è nessuna ricetta di assistenza che può durare nel tempo. E come giustamente ha detto lei, noi partiamo dall'evidenza, diciamo così, oggettiva, che l'Italia e il nord non si salva se il sud non ricomincia a correre. Se il sud non ricomincia a camminare, non dico a correre, e non c'è soluzione, perché il nord non è più in grado di produrre così tanta ricchezza, così tanto reddito da in qualche modo tenere in piedi il sistema. Tanto più in un mondo globale, il sistema dell'Unione Europea così come si è venuto a creare. Quindi l'unica ricetta per il sud è lo sviluppo e creare le condizioni per cui l'imprenditoria possa in qualche modo esprimersi. Lo dico, quella che c'è o che si può esprimere localmente e che può venire anche dall'estero, perché l'Italia è scomparsa, il sud è scomparso totalmente dall'orizzonte dei radar degli investitori internazionali. Qui sì, vengono a fare shopping, ci portano via i marchi, comprano quello che devono comprare, anzi sulle banche gliele regaliamo più, pure dagli NPL a venire in giù, ma per tutto il resto investimenti produttivi onestamente non ne fa più nessuno. Quindi o ricreiamo queste condizioni oppure il sud e poi l'Italia finisce, diciamo così, nel fanalino d'Europa come lo è attualmente, ma soprattutto nel fanalino di tutto il mondo che invece corre. Senta, se dovesse dirlo a un giornalista internazionale che chiedesse, ma la Lega di Salvini, che con Bossi e Maroni la Lega era diventata di governo, con il centrodestra di a guida Berlusconi, nei governi Berlusconi. Ma la Lega di Salvini a oggi, spiegata a uno straniero attraverso il filtro di un giornale straniero, si autodefinirebbe un partito che è tornato antisistema come all'origine, tagliando quindi una continuità rispetto con quello, quel partito di governo che condivideva tutto, ma perché di governo con Berlusconi la leadership per anni nella Seconda Repubblica, ed è tornato antisistema, oppure no? Non rinuncia all'eredità e alla continuità di essere un partito di governo invece che antisistema? Come risponderebbe a quel giornalista? Ma io giornalisti stranieri o comunque soggetti stranieri che vogliono approfondire senza il filtro dei media cos'è la Lega, dico che noi siamo dei populisti responsabili, cioè noi diversamente da tutti gli altri populisti in senso positivo, secondo me in senso negativo per la gestione normale, che girano per l'Europa e anche per l'Italia, abbiamo dato dimostrazione di buon governo a livello nazionale e di buon governo a livello locale, quindi noi non accettiamo lezioni da parte di nessuno, chiaro? Quindi noi siamo critici verso l'Europa, ma governiamo le due regioni più europee e più progredite d'Italia, quindi la nostra ricetta è una ricetta che sta vicino ai problemi della gente, e quindi siamo populisti e accettiamo di essere populisti e rivendichiamo il fatto di essere populisti, ma allo stesso tempo abbiamo dato dimostrazione che questo nostro modo di stare vicino alla gente produce risultati di buon governo. I migliori ministri dei governi Berlusconi erano della Lega, governiamo bene città, comuni, regioni, quindi non accettiamo lezioni da parte di nessuno. Populisti, e questa è la nostra presentazione che facciamo al mondo e all'Europa. Allora, populisti come, grazie a Giancarlo Giorgetti. Prego. Grazie a voi e buon anno a tutti naturalmente. Mi resta un minuto e qualche cosa per dirvi che sono molto felice, una cosa di colore più leggera, che il capo Alce Nero del Guerriero Sioux sia stato proposto dai vescovi americani agli onori degli altari. Avere un santo Sioux devo dire che mi conforta, perché aver pensato sempre che con la croce li abbiamo sterminati alla fine mi ha sempre fatto pensare male. Non doveva essere un grande traino per la conversione l'idea di chi era sbarcato brandendo la croce nelle loro terre e li aveva confinati. Non ho una visione oleografica naturalmente della faccenda, però questa faccenda del santo Alce Nero, devo dirvi la verità, mi ha molto molto divertito. Mi ha meno divertito una cosa che apparentemente sui giornali invece ai giornali piace molto e che alcuni riportano, cioè il fatto che ci siano due sindaci, il sindaco di due comuni che si scambiano, hanno deciso di scambiarsi per un po' di tempo la sindacatura, per così dire, e quindi sono due giovani, si sono conosciuti a Lanci, uno di 40 e uno di 38 anni e si scambieranno per un po' le loro esperienze. Ecco, allora, è possibile davvero immaginare che si arrivi a questo? Sono il sindaco di Avola e di Rapallo e apparentemente è una buona idea. La Stampa ne parla a pagina 20, perché Luca Cannato è sindaco di Avola, Carlo Bagnascolo è di Rapallo, così capiremo meglio il nord e il sud. Ma io credo che queste siano delle soluzioni evocate o fatte apposta per comunicare dei format televisivi. Cari sindaci, non avete bisogno di inventarvi finti scambi, tanto i poteri non potete esercitarli se non dove siete stati eletti, e pensate ad amministrare meglio le vostre città. Poi, per carità, la comunicazione è fatta di trovate, però il buon governo invece è fatto di soluzioni concrete, quelle che in molti capoluoghi non ci sono, e mi dispiace, io poi il mio mestiere è dover dire che a Roma non si vede questa qualità del buon governo, non si vede, il tempo è passato ma non si vede. Io lo scatto ai 16.000 dipendenti comunali e romani non lo avrei dato nell'emergenza finanziaria che resta a Roma, e tantomeno esaminando le pratiche in un solo giorno. Mi limito solo a questo per dire che l'anno che finisce, cari ascoltatori, insomma, ce ne ha riservate non di particolarmente esaltanti. C'era un grande scudo che ci dava Mario Draghi, bisognava approfittarne per abbattere il debito, fare un'operazione su quello e azzerare il deficit, e invece non l'abbiamo fatta, e vi diranno che comunque siamo un grande paese proprio perché non l'abbiamo fatto. Io la penso al contrario. Ci sentiamo qui la mattina il 2 con Luca Telese, e sarà intanto passato un buon capodanno, quello che spero migliore per tutti voi.